Gucci, Gucci abbi. Abbi su italiano ma come? Italiano ma come Edo, Edo è spagnolo loco. Filippone, andalo, andalo, promes. Continuo italiano loco loco, ascolti qua in Spagna che vogliamo essere grandi Italia loco loco. Dai Domenico, bagarda da tua. Disgraziato. Cosa ha detto la tavola? Oh, italiano loco loco. Ma no, che Domenico, ma è possibile? Domenico, aiuto, Domenico! Che manca Domenico, conosci di ciao a tutti comunque, dai. Gli avevo riconosciuto a Domenico, vabbè. Non c'è uscita. io veramente mi faccio gli affari miei e non chiedo mai niente a nessuno, capito? Io mi faccio gli affari miei e non faccio domande, soprattutto. Perché sennò si fa un gatto bene con quella macchina. c'è il cisto. Di Italino sta chiamando. E lui può chiamarmi come gli pare e piace. Non c'è problema, già non offendo io, già incazzo tutto. Ma ti ho visto una cosa, ma Mario si è messa anche un'altra antennina, come te l'hai messa tu, Natalì, sotto la manto, va? L'ho visto, ma è aggiornato la cosa, vede a tutti, e sono tutti con questa cosa di... come si chiama? Anche se lui non c'ha il coso del satellite, quel tubo del satellite alla U, lui ci ha messo un palo dritto. Ma ce l'aveva anche nell'altra antenna, Robe. Non l'avevo mai vista, no? Vabbè, forse non ci ho fatto caso. Ma tu dove sei già? Quell'antenna. Già, dove sei tu? Chi da casa. Ah, ma è macchina, non sei dentro la casa. Cappa. Allora quando è così la propaganda ti pugni non mi piace, perché è tutto un miscuglio, non si capisce niente, uno sopra l'altro. Ui Zanca! Ui ui ui, amico. Per carità di Dio. Allora, caspittina. Caspi. Su internet stavo guardando una tali oggi. C'era un affarone, compra subito un negozio di surplus militare, stanno vendendo un palo d'antenna, automezzi, telescopico, con pezzi, non mi ricordo da quanto sono i pezzi, di quello che c'ha il canale in mezzo, in modo che non si possa girare, tipo quelli nuovi che stanno facendo per i cartelli stradali, ce l'hai presente che c'hanno il canale per non ruotarsi quando ci fili il cartello, 29 euro, compra subito, automezzi di palo, regalato. Sì, ma bisogna vedere come te, che spesso ha il palo. Un palo militare, stiamo parlando, questo vende roba militare, un negozio che vende solo roba militare, infatti c'era di tutto, anche trasmettitori, ricevitori, un bel di roba. C'è un apparato di aereo, un bello, piccolino, tipo, vedete sono quelli radio, quelle radio secondarie che usano come seconda stazione, tipo uno IAESU, piccolino così, ma tu vedi quanto è bello, dell'Alitalia, ci sono infatti gli adesivi dietro all'Italia, ma si torna a continuare, tu vedi quanto è bello, con i tassini delle frequenze. Dipende da quanto ne vuoi. No, non me lo ricordo, solo che ci vogliono tutte le connessioni per i microfoni, perché quelli usano connessioni particolari, norme militari. Problemi bisogna, prima un microfono normale, di ICI. Anda. Bello, proprio bello, anche come linea, veramente bello, vero? Poi vabbè c'è roba grossa, quelli tedeschi, Rode Swat, ricevitore, c'è un trasmettitore Rode Swat da 0 a 30 di quelli super professionali, ma è una cosa allucinante, se lo vedi quanto è bello. Il ricevitore mi serve 0 a 30 qui, quello già mi sarebbe interessato, il trasmettitore non tanto. Certo, dice trasmettitore, fa ricevitore e trasmettitore, ma con i Rode Swat stiamo parlando di apparati super professionali, c'è cose, non mi ricordo quanto costava, però è una cosa enorme, se lo vedi bellissimo, digitale, con le display digitale, proprio apparati da laboratorio sono quelli. E allora da moderna. Eia, vediamo un po' chi è rimasto sul canalito, allora riepiloghiamo, c'è Domenico in tragitto di allontanamento verso Udine, Natalino, io, Gianni, Luca e Falchetto, faccio la chiamata generale un attimo di bianco e vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Attenzione, canale 16 che vuole entrare, avanti. Isla, riprendita la Luca. Nulla Luca, vai Falchetto e poi fa girare per Gianni. Scappa, scappa veloce, vai. Allora bene veda, riprendi Gianni e fai girare. Ega, non stavo pensando, vabbè, non c'era qualche speaker per la loro, vero? Io ce l'ho entrato anche altre volte, vende di tutto, vende come si chiama, divise, elmetti, periscopi, c'è roba di carri armati, cioè di tutti i generi, c'è militari, di tutto, valvole militari, è un negozio un bel grosso, non è un capannone enorme, c'è anche la fotografia, si chiama Surplus, non mi ricordo come è, una cosa grossa, un negozio un bel grosso. E te l'avevo visto su delle riviste e oggi stavo guardando una cosa su internet, è capitato questa roba, ho girato, e cos'è? E c'era questo palo, e poi e dice, entra nel negozio, sono entrato e era quello su Plus Militare, ma c'ha di tutto Gianni, visori infrarossi, c'è quella di Bussolini, c'è la macchina di gas, cioè vende di tutto questo, c'ha delle filare, mira, quelle forse interessano a te, 39 euro per i 40 metri, la filare c'ha rotolata di quelle da campo, che le allunghi e poi te le arrotoli, c'ha tipo quelli di muovere la lenza per pescare, una cosa del genere, un raccoglitore e te le allunghi, con tutto il rame puro. Io che me ne faccio? Nagiuno per i 40 metri in occhi, lampato. Infatti, secondo commentando, il luogo che fanno in conoscere, partito. Adesso vediamo un po' quando è libero che lo mettiamo a posto. Mi ha telefonato a me per dire a vedere com'è, in che condizioni è, ha detto non ti preoccupare, già vai a scatola chiusa, già è bravo, gli ho detto Natali, non ti preoccupare. Vai già. Ehi, dai. Ebbene Natali, niente da fare, non ancora, non è piazzata con l'antenna. Ci mettere in aria, ad esempio, la piazza. Sono di poco su da ancorare quella discone. Che è sopra quel trabattello per non rompersi e devo aspettare che il tempo si stabilizzi e poi ce ne piazza. Quel di poi già mi sarebbe servito, guarda. L'altro giorno a Catania mi sarebbe servito sì, quando ho collegato quello della Polonia. Cavolo, l'ho collegato con la Mantova. Radio Super 5 Santiago 9, anche in Francia, quello era in macchina e dice che stavo sbarrando tutto, era quando mi mandava a ferrare, c'aveva il PS50 in macchina, questo francese. Cappella che bisogna che siamo qui bene lo stesso. No, per di poco più silenzioso e per il DX va meglio. C'era casino, ma ho dovuto mettere le cuffie perché quando c'è troppo casino viene male quando parli le lingue straniere e l'osco. Se non capisci bene cosa dicono è un macello. Comunque la propagazione si stava riaprendo stasera. Ho visto che un po' si è riaperta, ma ieri c'era di più. Ieri mi sembra che sia, ma me l'ho messo in loco, che sciabili. Che guardiamo un po' quando lo collegato. Ma via si parla con la USL anche da Bologna. Vediamo. Oggi quando ne abbiamo. Sì, ieri l'ho collegato, ieri, sì. 5-9. E ti mando la USL? Anche per tutto. Prima io non glielo quindi dico, no, se no digli a quella persona per il PM box, guarda che mi serve. Vediamo, non l'ho visto ancora, mi ha telefonato Rita stasera la moglie, ma lui non l'ho visto. E a lui chiedi che già lo buschiamo. Tanto si paga. E glielo chiediamo, Pagava. Dicami. Io ti ho box, non te l'ho primo. No, già me ne ho fuggi, non me ne frega niente. Non mi interessa. E me l'ha chiesto l'altra volta questo qua, cioè sono anche ho fatto anche una maleducato con questi qua, spagnoli, però probabilmente erano radioamatori perché parlavano con linguaggio un po' più evoluto, come termini. E mi ha detto Pion Box, per mandare ha detto no Pion Box, infatti poi hanno chiuso due altre della chat, hanno interrotto immediatamente le trasmissioni, ho detto loro, perché loro me lo stavano volando, tutto il loro, e i loro dati, poi ha detto dammi il tuo, e io gli ho detto no, non ne ho. Non so se abbiano capito che non ne avevo o che non ne volevo dare. Prima te le chiedevano le QSL, quasi tutti QSL, QSL, e si facevano, io cazzo si prendevo un bel soldo in quelle cartoline di sughero, ti mandavo la cartolina di sughero più quella personale, e niente, ma a me mi mandavano tutto monete, sotto bicchieri della Germania, della birra, del Brian, di tutto. Come mai siamo capitati su 16 poi qua oggi? E appunto siamo su 16 perché c'era Graziano, prima Gio Maria, Cosi, Nottalino, da quando sono salito al lavoro ero sul sì. Questo è il canale di Elena, per quello siete andati qua a Portaccione. Io vengo a Portaccione, Elena. Bene, mi racconto un attimino. Ma che bisogna andare alle telefone per lasciare un problema di me? Dai. Un attimo, là di bianco, sto facendo roba al computer. Dovete scusarmi, ma sto facendo colpo. Avanti, falchetto, capo. Attenzione, Elena, se vai a ascoltare la città di Sassa d'Italia che va chiamando, Gabba. Scritto dove sei? Ti sei imboscato come lei, no? No, negativo. Abbiamo una tazza di rosso. Te la piazzi un due? Ehi, non c'è problema. Ehi, ehi. Comunque, cosa vuol dire italiano occo, lo sai? Italiano scemo. E tu dovrai avere cose. Ehi, ma le scherza sempre, le scherza, io dico spagnola loca, e lì mi dice italiano loco. Ragazzi, lei deve intervista, la signora Elena. Brava, brava. Dove Elena? Ascoltando, sai, no? Dove che il porco stai facendo? Ci sono le nuvole tutte quante arancioli, belle, bellissime. Si propone una bella giornata, dai, a quanto pare. Speriamo bene. Se no questa volta ce l'ho sempre ferma, ragazzi, non posso mai usarla. Ieri l'ho usata perché ho visto il sole e poi se la guardi vedere la BBV di cazzo di acquazzone. Mamma mia. Se sì, sì, che mi fino la tutta l'altra pioggia, ragazzi, non sono tutto, fate in tempo in tempo a mettermela. Ma sono arrivato asciutto, asciutto, eh. Beh, con la tutta sì. E ma rotta di scatole, mettersi a togliere, no, mai. Ma purtroppo già, quando succede queste giornate così, beh, anzi, è un bene che ce l'hai. No, io, se sapevo che pioveva, sarei sceso in macchina. Ho visto il sole, le trappe, no, e invece era il sole in cannabizzina. Infatti, il sole in cannabizzina, davvero. E tu pure a me, io avevo guardato le previsioni. E quello che mi ha fregato. Infatti, mi avete fregato allora già. Peccato. Roberto. Ok, sono rientrato. Cappa. Che c'è? Anche se tu già hai buono, ce ne sono. No, c'è anche Natalino, ma il computer Natalino. Computerizzato. Come resta in macchina già? E così. Mi sono fermato 5 metri per rilassarmi. Ma mangiate la pizza, tu ti mangi sempre la pizza, così? No, non ho mangiato la pizza. No, sono fermo così e basta. Perché a volte devo scaricare la tensione del lavoro, me la scarico prima e poi vado a casa. Non c'è un contenitore che la metti dentro che produce energia elettrica? Troppo fuoreggia, quando lavori un bel... carichi molta energia, ma di quella nervosa, e quindi devi un po' rilassarti e poi tornare tranquillo. Ma perché gente fastidiosa c'è? Cioè tu sei a contatto con la gente anche? Vabbè, con i clienti soprattutto. C'è gente che rompe le scatole, gente di assili anche nel lavoro, ti stanno sempre chiamando, dove sei, dove non sei, vai qua, vai là, bru, alla fine della giornata poi si sciolgo. Ti si scioglie le minuti. Quindi hai bisogno di un po' di rilassamento, un po' di rilassamento, provi a tornare a casa, lo torni con i nervi, te la prendi con chi non c'entra, e allora è meglio che torni tranquillo. È pacifico. Quindi avrebbe magari in carriera abili le basse già. Ma tu perché devo dire tutte queste cose? Perché mi devo scusare? Ma è normale già, perché sono una persona normale. Se sei stato mancante magari ti scaricavi con qualche un altro. Già, cazzo, il primo cacciato, mi intendi miei anni come giusto. Pure se non ho fatto nulla. ti scarichi subito. Vedo i consigli, no? Ma io preferisco scaricarmi così, piano piano, parlando, tranquillo. Siccome è troppo gente che non mi fa incazzare. Gianni, a te racconto una storia, vedami, non una base. Dimmi. Questo tipo, il cognato di questo amico mio, vabbè, buonanima, poverino, era un periodo che la notte lo telefonavano, gli rompevano le scatole, cioè, lui già doveva stare presto, era nervoso per quello, cazzo, tutti i minuti non rompevano le scatole, infatti fa diverse notti che gli rompevano le scatole, che non riusciva a capire chi era, niente, alla fine la disse, Burieggia, dice, basta, devo va a pagare, figlia, fai il numero a casa, c'è un telefono, dice, preparati che stanotte non rompe. Avrebbe essere la niente, ma questo convinto mi dice, me le posso scaricare, ha pigliato il numero a casaccia, dice, l'ha detto, preparati che stanno tirando un nome. Grande roba. E io non mi sento telefonato io a uno, però che conosci un amico mio, via. E l'ha giù telefonato, e non mi aveva riconosciuto, giusto, ma pronta era accesa, preparata la chissà accesa. Io ho fatto una figura con un cliente da poco, mamma. Dove c'è un amico mio, vicino del fuoco, è sempre scherzoso, facendo scherzi, ti telefona, ti fa tutte, sono l'avvocato quello, sono qui, tanto mi telefona già il tuo cliente d'officina, una persona grande, e mi fa, sono, non mi ricordo che nome mi ha detto, il nome è proprio suo, e fa bene, io sono come buongiorno, vai a finire di arrivare un macchino, e lui continua, ma come, non mi riconosce, io ho portato la mano, vai, non è difficile, proprio, io ero sicuro che era quello lì, alla fine dopo mi fa, ma l'assicurazione, ma perché mi sta parlando così, ma questo sì, cazzo, alla fine era un cliente, ogni figura, non so più cosa dire. Ma c'è stato chi sa, ma se no come ti posso, se non hai preparato la cesta, punizi tutti i rossi che ti trovo quando ti acciappo. L'hai sentito? Io invece ne ho fatto una più grossa, Roberto. Vedevo. Erano un periodo che telefonavano spesso a casa e chiedevano il telefono. L'hanno fatto per tre volte, dopo un pranzo la telefonata mi hanno disturbato. E non rispondeva, poi la quarta volta al telefono. E come ho detto al telefono ho detto vaffanculo, ed era la zia di mia moglie. Luce, almeno devi sapere chi è. E perché quelli, ti è mai capitato gente, ti telefona, ti va del rutto? Quello era lo scherzo più fesso che si fa, proprio una cosa, dico, che tutto va, io dico, diti una parola, fatti una parolaccia, abbigliati in giro, ma ti aprono la linea e poi ti fanno le rute e ti chiudono il telefono. Che gusto, ci prende la gente. E questo qui dice, ah, il mio cognato ha fatto uno scherzo, mi ha detto, pronto, e lui, pronto, chi sei Luca? E lui, Luca chi? Luca. Ma poi una volta è capitata una telefonata a me in officina che c'era lo stesso nome mio, questo qua, mi telefona questa persona e fa ciao Robè, devo fare, e io parlo, ma allora parlando, chiamandomi per nome, e poi alla fine mi diceva delle cose che non riuscivo a capire, ma chi ti sei confuso con quella credenza, ho fatto ma chi sei, lei mi faceva ma chi sei, e io gli dicevo sono Robè, e io sono, mi dice ma non so, un momento si chiamava Maria Francesca. Ha detto, boh, ha detto, ma chi Roberto stai? Alla fine gli ha detto il cognome, ah scusa, ho sbagliato numero, cioè ma il numero va bene, è simile al mio. Ma è stato un po' parlando, parlando di cose di casa, di cose loro. Ha detto, boh, oh scusa, ho sbagliato. E che a me è capitato? A me addirittura mi ha fermato uno in strada. E mi ha detto, beh, l'esame l'hai dato, prima mi ha fermato, mi ha baciato e non sapevo chi cavolo era. Non avevo quasi di dirle niente, perché questo qua è tutto preso. Beh, beh, l'esame com'è andato? Che sì, va bene, bene. Beh, se n'è andato questo qui convinto di parlare con una persona che voleva lui. Si è confuso e non capiva. E io non ho avuto il coraggio di dire che, avuto, che stava sbagliando, se no poi si faceva il fosso. Io c'ho un cliente d'officina, ma da una vita, già. Questo tipo saranno almeno, cosa ti posso dire, se non 30, 25 anni che lo conosco, forse anche di più, dai, mi chiama sempre Antonello, mi ha sempre chiamato Antonello, quando verrebbe Antonello, inizia, verrebbe Antonello, non gli ho mai avuto il coraggio di dirgli che mi chiamo Roberto, perché lui è convinto che mi chiamo Antonello. C'è gente strana. C'è pagosa, sempre Antonello, beh Antonello, beh, non si vende Antonello, beh Antonello. Pagato. Ce ne sono di cose strane. E a me mi ha telefonato questa tipa addirittura dall'estero, mi ha chiamato e mi ha chiamato Antonio. Ciao Antonio, sono sono qua in Germania, cosa, sempre, sto lavorando sempre lì, sicuramente era italiana, però viveva in Germania, tu scusa, ma io non sono Antonio, come non sei Antonio, ti riconosco dalla voce, dai, non bugliare, a me mi è capitato per almeno 3 o 4 volte di in piena notte alle 4 del mattino sentivo il telefono suonare, telefonava questo qua con un prefisso internazionale, penso inglese perché non era americano come voce, no mi scusa, americano non inglese perché c'è un po' di differenza, probabilmente per il fuso orario, e alle 5 di mattina alle 4 del mattino cercando questa persona e non mi ha messo un nome in inglese. No, cazzo, ma è una prima testata quando ti svegli nel soprassalto un po' di notte, magari alle 4 del mattino in pieno coso, pum, e ti telefono a questo, magari di là sono le 10 del mattino. Poi non riesci più a dormire, perché ti spaventi a quell'ora lì, sa, ti siedi il telefono perché c'è qualche cosa e dopo ti prende la tremarella, non riesci più a dormire, allora mi fa così. Lo so. Infatti a casa mia, poca gente, non è a casa mia, pochissime persone l'ho dato. E così il cellulare lo spengo, io preferisco essere tranquillo, che se no ti viene anche qualche colpo. Non dico che devi essere tipo ansioso, perché non sono molto ansioso, però cacchio, se ti telefono alle 3 ore, magari c'è qualcuno, qualche parente o qualche persona che è fuori casa, cacchio, ti piglia uno spavento brutto. Ma c'è gente che lo fa anche apposta, ti telefonano di mattina presto per romperti le scatole. C'è un periodo che telefonavano a me di 9 notte piena, l'hanno fatto per più notti. Ho cercato anche il numero, ho chiamato per cercare il numero, ma non sono mai riuscito a beccarlo. Sicuramente telefonava da un cellulare perché lo nascondeva il numero, era privato. Capito? E alla fine ho dovuto cambiare il numero di telefono. Lo so, poi dopo le imbecilli ci sono da tutte le parti. Vabbè, vediamo un pochettino, stiamo monopolizzando. Fa che ancora ci sei. Arrivo. Yes. Vediamo se c'è sul 16 qualche imbecillotto come noi che sta a voler parlare. Dai, avanti che vuole fare sul 16. Imbecillotto senso spiritoso, non offensivo. Sicuramente ascoltoni non esalane un bene. Questo è poco ma sicuro. Sono tutti acquisenti, infatti gli episodi fissi che fa vita, allora c'è un tavolo con un discorso tecnico, le bevite siete pungenti. Quello è molto alto, ce l'ho a 5 luci. Poco fa c'era, deve essere faccia battimento a qualche radio francese. Sul canale 6 o 7 sentivo il telegiornale francese. Su questi apparati che sono molto selettivi, mi figura di che potenza dove avere questa stazione. Per uscire in armonica. E infatti poi, senza contare la propagazione, se no non li sento. E fuori usano linea loro. Magari la legge è anche diversa. No, adesso parlano broadcasting, stazioni radio, come si chiama? Non amatoriali, radio broadcasting. E vabbè, ci sono un po' tese che neanche ci immaginiamo, stavo guardando, io ho delle stazioni radio, molte volte ascolto stazioni internazionali, ma hanno potenze 2 megawatt, cosa sono 2 megawatt? milioni di watt, con potenze fuori dalla norma, 300 megawatt. Italiano sta chiamando dalle Tenerife, attenta Elena, se va a scusare l'isola della Sardegna, città di Sassari, K. Poi come si chiama la vita Elena, la vita italiano locco, poi rimetto che la vita era buco. Saranno da Cagliari. E quella della bassa bassa della Spagna. Ma che Elena, c'è il falchetto Antonio che ti vuol parlare. Ma non ci sono io, No, mi ci mettete in mezzo. Adelante Elena. Italiano, non ci mettete in mezzo a me. E dai che stavo scherzando. Già Gianni ha fatto di voltare a Capri 2. Ma te la metti già? C'è quella sera Lucia. Ma capì che stava diventando una cosa molto, molto grave, mi. Guarda, io a un certo momento ho detto, bum bum, esci, sono tutto, sennò mi viene. Guarda, non lo so. so, a me mi avrebbe dato molto fastidio, perché è iniziato da uno scherzo e poi invece sembrava una cosa più grave. No, ma io non ho fatto niente, io non c'entro nulla. Questa qua poi si è presentata, lo sai. Come avete detto, io non ero presente, ma me l'avete raccontato. Questa con la macchina con l'antenna, c'era scritto CB, eccetera, eccetera, nella macchina. Elena, CB Elena. Vabbè, ma ora la moglie non è gelosa, non ci ha fatto molto caso. Guarda, io non ci credo che una persona non sia gelosa. Ci sono quelli che lo fanno vedere di più e quelli lo fanno vedere di meno. Poi ci sono quelli gelosi, vabbè, esasperati, quello è un altro discorso. Però a tutti avrebbe dato fastidio, perché non penso a te o a tua moglie, a qualcuno, a chiunque dà fastidio. Io sicuramente se l'avrei fatto a mia moglie l'avrebbe picchiata, per come la conosco. Vabbè, magari qualcuno che ha avuto a fare uno scherzo di cattivo gusto, però con la verità ce la divertisce. Che poi parlava uno, cioè all'inizio poteva sembrare una balla, poi te ne entrava nominalmente tu chi per Paolo, chi. No, anche io, l'ho sentito anche io, cerca. Ma è vero, mi è entrata davvero, comunque, lo stava cercando, l'ho sentito, l'ha chiesto anche a me se l'ha sposato, mi ha chiesto un bel coso. Confermo, l'ha chiesto anche a me, là, c'è vero, c'è vero. Io l'ho sentito una volta, ha detto, c'è Capri 2, c'è nel Capri 2, boh, poi se n'è andato, ha detto, no, si è spostato di canale, boh. Però poi dice che, voi me l'avete raccontato successivamente, stava chiedendo anche informazioni personali. Ha chiesto anche a me. Vuole sapere se ha sposato, se è vero che veniva a Cargeghe, perché lui ha detto che abitava a Cargeghe. Poi, chissà, per coincidenza è coinciso quel fatto... Non so cosa sia successo, poi me l'ha raccontato in particolare, l'ho detto lascia perdere, e infatti una settimana non si sentiva, ha detto, boh, poi è successo qualcosa in famiglia. No, ma io sono anche andato a casa sua a spiegarmi la musica, non ho spiegato tutto. Io non ci voglio entrare nulla perché non so nulla, non so chi abbia fatto questo scherzo, però è uno scherzo di cattivo gusto, quello che ha mandato la tipa, tutto quanto. È un po' di cattivo gusto, potrebbe compromettere Gianni, ma ha detto cavolo io lì lavoro, me ne è venuta sul posto di lavoro, qualcosa che mi vede essere i colleghi, le colleghe, eccetera, eccetera, non sta bene. Ma tu le immagini, poi magari da uno scherzo così, poi la moglie magari interpreta male, dice mi questa va bene, lui magari onestamente non ha fatto niente, lo vedo mio, ho visto a tuo marito con quello cacchio, ne esce nei buco di macelli in famiglia. E da quelli dei paesi va da impresa. Già lo so, le bocche sono molto aperte, sinceramente in chi è peggio di noi. Succede, dai, succede. Ma è uno scherzo, senza ombra di dubbio, è uno scherzo. Tra l'altro io quando avevo fatto un'osservazione, ma senza nessuna malizia, che pure tu ci sei rimasto male quando ti ho detto, ehi, allora avete inteso di me, me ne già, tu, e cazzo, e c'era tua moglie vicino. Infatti, ma tu cos'è questa storia, subito è. Io l'ho fatto già, tranquillamente, senza manco minimamente. E lo so, però. Sai cos'è, che magari... metti la pulsione nell'orecchio, capito? Anche se non è vero. E poi io non ho nessun problema. Chiunque può venire al quadrato il sabato per vedere con chi sono, con chi non sono, non c'è problema. Non ho niente da nascondere. Lo faccio solo per farmi quattro chiacchiere. Lo sa Natalino, lo sanno chi viene con me. Non c'ho nulla da temere, niente da nascondere. Per cui... Però io li conosci uno così, gli c'è niente da nascondere perché la moglie lo sapeva. Ah, vabbè, ma lo sono tipo io. Io sono tutto per la famiglia, Gab. Hai trovato un presuntuoso, a parte un imbecille quando fa una cosa del genere la umilia tua moglie, la moglie le voleva bene e si è abituata a lei, e lui sì, andava a farsi la spesa, a città mercato, lo avevano tutti, cioè all'acqua, cioè alla parte a tutti, cioè senza nessun ritegno. Dico, se proprio sei così guato, fatele per conto tuo le storie, senza fare vedere a nessuno, invece proprio lui lo vedevi, riusciva a città mercato, a comprarci e lesi la frutta, cioè lo avevano tutto quanto. Ma la luce nel sole, non è quella rossa. E cos'è già? Ho detto la luce nel sole, non l'acqua di rose. Non proprio come tu. Sì, sì, lo so, guarda, è successo anche a dei colleghi miei, che lavoravano altre due da noi, lei si è andata a pizzeria col tipo, il marito con lui da fusicare. No, così è peggio già, io parlo lui che mette con me a lei. Da entrambi le parti, vabbè, c'è poca serietà, perché un rapporto ci deve essere stima reciproca, sincerità e tutto, vabbè, c'è gente che non le vede così le cose, poi ognuno la vede a modo suo. Vabbè, ma è umiliante per un uomo sapere della moglie e se ne va in pizzeria con un altro. Magari se un uomo se ne va con un'altra donna è un imbecille, è che non so la moglie, però è meno umiliante, diciamo, se no, cioè, l'uomo, se sei così sei burrudo, se invece lo fa l'uomo, Cristo è un magnaccione al limite. Ma è sbagliato, vabbè. Io avevo un amico che aveva una ragazza che aveva 9 anni, ce l'aveva 9 anni la ragazza, e diceva sempre ciò che la ragazza è peggio. E tutto quello che gli capitava sotto uno si prendeva. E poi, diciamo, un giorno io gli ho detto, scusa, se non fa una tarefa come fai tu ti piace? E io, beh, di Aida, si rubate. Allora non va bene una cosa del genere, perché ciò che non vuoi che sia fatto a te lo devi fare agli altri. Giusto, d'accordo. Poi sempre dipende dal punto di vista, ognuno la pensa come le pare. Dico, se tu ci stai con una persona, nel senso gli vuoi bene, perché se ci stai solo per la forma, per farlo vedere agli altri, che c'è la moglie, però è un altro discorso, ma se sei sposato per motivi diversi, che ne conosco gente così, purtroppo se è sposata anche a posto in città la dico, non gliela futti nulla. C'è gente che sta a capo, cosa vuoi fare? Io dico, senti uno è scappo, che si fa le storielle, niente da dire. Però anche se è fidanzato e mette le cose alla ragazza, io la vedo nella stessa maniera. No, ma magari c'è qualcuno che si chiama, c'è qualcuno che dice non è un rapporto serio, è soltanto così di compagnia, tanto per dire che faccio una bizzina, quando mi serve qualcosa ce l'ho. E se è un rapporto importante, a quel punto uno, se almeno lo valuta importante, deve mettere la testa a posto. Beh, io ho un amico mio che praticamente ciò che la casa è peso, per intenderci, l'avevo portato a una festa di carnevale, io mi sono messo con una tipa la sera, lui ha visto a me e si è vacuata. E gli è capitata proprio la figlia del nostro professore. Ha messo un capo, la sera è venuto qua, poi mi lascio la mia ragazza, mi metto con questa, mi piace troppo, questa e quell'altro, poi le simula la ragazza. La ragazza ha telefonato a me e mi ha detto, ma è portata la via della perdizione, ha mollato a me per un'altra tipa, mi ha detto che raccontava una festa, che l'ha conosciuta, questa e quella. E ho detto, mio che colpa ne ho. Lui la testa ce l'ha, io non avevo una ragazza, quindi ci aveva fatto una storia così e via. E poi ho fatto di tutto perché lui poi è tornato la sera, tanto ve lo dico adesso perché sono mezzo brillo, ve lo dico, ho mollato la mia ragazza e poi quella lì mi ha detto che aveva già un ragazzo che stava facendo il militare, che è stata solo una studentina così, che a lei non gliene fregava nulla. E poi ho scoperto anche che era la figlia del mio del nostro professore. Ha detto proprio di chissio di voce, se c'è una cosa del genere. Diceva aiuta, mi già fa qualche cosa, era un angelino, capito? Quindi già lo so, io conosco uno, invece anzi due, di questi fighetti di spiaggia, tutti i togini che loro si vantavano, tutte le ragazze si erano fatto un bel di delusioni, nel senso trovavano una ragazzina, si innamorava questa si metteva a piangere, poi le lasciava proprio come tracce le trattava. Però tutti e due sono finiti male, hanno già fatto due colpi di scoglio, hanno fatto l'errore, l'hanno messa incinta e si hanno dovute tenere. Proprio un matrimonio, sono ancora sposati, vivono insieme, però è un matrimonio così, solo per il figlio, e buh. Preparatore, diciamo così. E lui era uno di questi, se lo vedevi sempre tutto fighetto, messo in ordine, usciva sempre, non lo vedevi mai in disordine, eccetera, eccetera. dove andava da tutte le parti, lui si vantava che faceva quello, quella, alla fine ne è capitata una e la fruttina visto. E anche io un amico così, ha girato e rigirato tante ragazze e finito con un polpo di prima qualità. Infatti metto, mi devo sposare, già mi ha trovato in sala, mi devo sposare, ma è un polpo, se la vedi spaventi. Ti invito al matrimonio, vieni tranquillamente, non c'è problema, siamo amici, cos'è, per la tua partecipazione. E ho conosciuto la ragazza, guarda, non sarà bella, però ci ha fatto un po' crepare dalle risate. Una volta ci ha invitato a cena, a mia moglie, lui è tutto riservato, lei sputtana di brutto. Guarda, lui, zitta, zitta, e lei sputtanando le cose, io ridendo, pisciate le risate, la guarda. Non so, magari poi molte volte la bellezza non conta niente, dove la ragazza è simpatica, ma lì c'era antipatica, fea e un tappo, tutto quanto c'aveva di difetti. Cioè poteva trovarne molte di meglio, ne ha avuto molte di meglio, purtroppo poi lì da chissà per quale motivo lui se la voluta per fare il fighetto, come dici tu molte volte, quando ci sono gli altri amici che hanno la ragazza, lui si mette in mezzo, e poi sono le persone più sole del mondo quelle lì. Sì, perché di concreto secondo me dentro non hanno niente, capito? Di concreto non c'è niente, è tutto vuoto perché non ha sentimenti, non c'è niente, è una cosa proprio scialba. Così è un amico mio lo stesso, adesso sono sposato, la moglie è una bella ragazza, niente da dire, anche se la coppia magari non è molto affiatata, che lui è un po' premuroso, non dico premuroso, il contrario è premuroso, come si dice, me ne frega. Questo qua c'aveva un paio di ragazze, ma anche belle ragazze, ma tu direi come le trattava, proprio le trattava male, molte volte diceva, ma perché non ti comporti bene, faceva lo splendido, le faceva ingelosire apposta, per dire. Una lì si è fissata con questa bizzina, questa non era un granché, non era bellina, così normale, un po' spesata al bruttino, anche se è innamorata di, tu devi cosa le faceva, questa ne ha fatto di tutti i colori, quello che lui ha fatto alle altre, questa tipo l'ha fatta a lui, e questa tra l'altro era anche bruttina, però c'aveva personalità, carattere, lo sai che non l'ha fatto di disperare, però alla fine vabbè l'ha mollata, si sono mollati, ma è stata lei a mollarlo, non lui, perché lui era sempre fissato con chissà, però ha tappato una più furbaletta. Se trovi quella dura di carattere ti fa penare. Poi donne e sceme non ce ne sono più adesso, capito? Siamo fatto loro le donne adesso, non sono più come prima, che erano succubi del maschio, di quello che diceva fai così, non lo facevano così, se devono ribellare si ribellano. Non viene più di chi si. Di quelle che fanno quello che gli dici e basta. Io avevo un amico che diceva ciò che dico io a legge, alla moglie. E vabbè, diciamo, fino a che non c'è più la volta che ti scudi un frate di piedi e ti ci manda, diciamo, ci vuole anche un po' di dialogo, naturalmente ci deve essere un predominante normalmente, perché se c'erano tutti e due la stessa forza non dura molto. Sì, perché arrivano, non arrivano mai a un compromesso delle cose. C'è sempre qualcuno che deve abbassare un po' la testa, perché se cominci uno e due, l'altro e due, si scontrano. Sì, alla fine normalmente è il maschio, io sono molto maschilista, normalmente deve essere il maschio, però non è detto, può essere anche la donna, io conosco tanti amici, coppie affiatatissime, che la moglie, ultima parola la mette la moglie, dice sempre il marito, e beh ci viene, guarda non lo so, aspetta, chiedi a mia moglie, e gli dice alla moglie, se la moglie dice sì va bene. No, ma quello lo faccio anche io, se dobbiamo andare lì posti con mia moglie, le chiedo sempre il parere a lei, se le va, se non le va, non è questione di predominare, ma è questione di renderla partecipe, dai. No, non sto dicendo in quel senso, già, sto dicendo perché molte volte voglio andare a una cosa, lei non ci vuole venire, dico dai, andiamo, e poi alla fine viene. Per dire, la convinco, e beh, non sto parlando di quelle cose lì, sto parlando di certe decisioni, magari in casa, perché ci sono magari le donne, magari per dire, il marito porta lo stipendio, gestisce tutto la moglie, dice dai ci dobbiamo comprare questo, e quello dice no, aspetta, non facciamo il passo, che è ancora presto, magari l'ultima parola, e soprattutto molte volte nei paesi succede questo discorso qua, che le donne hanno l'ultima parola nel discorso economico. Vabbè, dipende. Dipende anche come io mi ricordo che mio padre lo stesso quando tornava a casa gli dava tutto in casa a mia madre. E mia madre gli gestiva lì i soldi. Però non ho mai visto mio padre e mia madre bisticciare una volta, ci credi? Mai, erano affiatatissimi, ci fanno per mano. Infatti li chiamano Zio Marco e Zia Maria, sacro cuore, perché erano tanto, la gente era gelosa, perché li vedeva a bocca affiatata, se non ci fa uno non ci fa l'altro. Mio nonno una volta diceva, vai, scendi giù di Giardini, aspettami lì che scendo subito, finisco di fare questa cosa e poi vedo, no, no, ti aiuto io, andiamo via insieme. Adesso sono coppie di vecchio stampo, già c'è qualcuno ancora, la trovi, ma sono punte di iceberg, diciamo coppie così affiattate che proprio che non si muove uno, se maraduno in casa siamo a bururaffio, se c'è un'influenza uno si apprende anche l'altra, anche se non è per dire, però le coppie moderne assolutamente non è trovi. No, ma io penso che un rapporto ci deve essere, bisogna che abbiano degli spazi tutti e due, se per dire mia moglie decide di andare con le amiche a mangiarsi una pizza perché è il compleanno di un'amica, ma così io non faccio obiezioni, ci sono persone, ci sono mariti che guai. Vabbè, dipende dalle situazioni, diciamo, dal rapporto che c'è, magari per molti non c'è niente di male, per altri diciamo può essere un senso di troppa libertà, non di coso, va. Allora, cosa ci fai tu in giro? Uno può dire, cacchio, ci sono i figli qua a casa e tu te ne vai in giro, diciamo qualcuno può anche ragionare così e non li critico neanche. Poi ci sono quelli possessivi, chi accada in casa tutta coperta, se si mette appena la gonna accorta la bloccano, lì si torna a casa e c'è un bambino. Ma quelli sono siciliani, io penso una cosa, io la mia libertà si con la vita, le vuole, se io sabato sera decido di andare con gli amici, a meno che abbiamo qualcosa da fare, noi mette in priorità quello che dobbiamo fare. Però se io non ho niente da fare con lì, cosa vado, mi trovo con gli amici e lui non mi fa nessuna obiezione. E perché devo essere io a fare la lì se chiede di andare con gli amici? Allora se il giorno lì un sabato mi dice devo andare con gli amici a mangiare la pizza, ci posso andare? Che dico, a me lo chiedi, molte volte è successo, mi dice ci posso andare, a me lo chiedi, vai. E i bambini ce li tengo io. Vabbè, diciamo tu lo fai di più, no, io col discorso lì no, perché non lo voglio fare, non lo posso fare, però preferisco stare con la mia famiglia anziché andare meglio, non mi va a fare un discorso, tu ti dirai è una mentalità diversa, per dire andare, molte volte può capitare, per dire quando fai qualcosa durante la settimana, dico mica sto andando con gli amici a mangiare la pizza, può capitare, però a farlo di sabato no, perché io l'ho voluto la settimana e poi il sabato che ce l'abbiamo libero, il sabato e la domenica non mi piace andare così, preferisco non andarci, no, se vengono anche le mogli dico sì, se no niente. Vabbè, ma io il sabato lavoro tutto il giorno, tu non lavori, ma io lavoro tutto il giorno il sabato, e quindi quando ritorno sono bello stressato, ho la voglia di sfogarmi, di parlare, di fare, e bisogna anche capire la situazione, se tutta la settimana che lavoro, con la famiglia ci sto, perché non ci sto, la domenica andiamo in giro, facciamo, io molte volte li porto in giro, vado in gita, cosa, non è che la lascio perché la trascuro la famiglia, faccio l'uno e l'altro, si possono fare tutte e due le cose, perché non è detto perché tu il sabato esci per dire e ritorni a mezzanotte che nemmeno è, a tante volte sono le 10:30, trascuro la famiglia, no, non è così, a parte che io esco e poi vado a prendere mia figlia che va nei locali, vado a prenderla allora che esce, quindi ci vuole sempre qualcuno che vada a prendere, mica faccio uscire da mia moglie, ci vado io a prenderla. Cioè, a parte che forse c'era qualcuno che stava parlando avanti, chi è? Ah, non c'è nessuno. Ok. Ma tu sei ti stai portando questo gorgoglio già? No, no. Come stai parlando? Cioè, Avvio. Guarda, vedete, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma tu sei sempre fermo allo stesso punto, io. Cazzo. Era c'è qualche problemino, ti sei abbassato un bel segnale, già, ti stai abbassando sempre di più. Perché mi sono abbassato il segnale? Perché ho abbassato io, non ho fatto. Adesso ho aumentato, guarda, come lo dico. Sì, adesso va bene, no, perché sei sceso da 9,15 a 9, meno di 9 pure. Una madre! Ma ce l'hai fatto un po' allora, ma Natalia ancora vi sei? Io sono sempre in occhi, so, qui bisogna che accuscenti, pazientemente. Aio, raccontaci la tua, tu che sei un mandrillo, ok? E poi sono un mandrillo, non tanto mio mi voce. Allora. Coccainomane, così è pure. Coccomane. No, cuocuomane, ci dice. Mi guardate di locca. Cuocuomane. Sì, perché c'è una persona che non lo sa dire coccainomane, allora dice cuocuomane. Ma a quale frequenza? Gli altri lo dicono attimamente. Ma pertanto gli ha dato un bene, io da quando ti conosco l'ho sempre sentita questa parola. Sì, va bene, già ti dirò. Non c'è problema, dai. Dice che vede un libro nero, maledetto, stava, mi stava raccontando l'altro giorno Claudio, che ne ha mai detto una parola, mi ha fatto troppo ridere, stava raccontando una storia di una persona che faceva frequenza, tutto un discorso che ha fatto. Dice che c'è un libro di questo, già mi deve avere la fotocopia anche a me. Direi al campemmo gata la giunta, ovviamente. Guarda, io ho un libro comprato, fatto da una persona in ambiente calcistico dilettantistico, che ha giocato, ha dato, e si chiama Il calcio è rotondo, questo libro, saranno 150 pagine, ci sono tutte le parole che si dicono nel calcio, tutte le cose errate, le parole che si sentono durante le partite, gli allenamenti, le tifosi, guarda, è una cosa spettacolare, proprio bello, fatto bene. Ehi, dobbiamo prendere lo spunto da quello per poterlo fare. Sono cose proprio che se ci pensi di cazzo, lo sentite anche io per esempio. Poi ci sono tutte le frasi di Jesus Sinchimi, tutte le parole, cazzo, ce ne sono certe, Natali. Adesso mi sento una conto qualcuno mi viene burla di lì. Frate di Jesus Sinchi ne conosce pure io. Uno due mi dico di avrata. Ma nella mia adesso me ne viene uno di. Dice, a ogni zocco di campagna ti mori a un parente. Ehi, se l'ho vista. Anche te vecchi amici che tu hai detto che mi burizzotti, da poi te vecchi amici che tu hai levato il vaglion, anche te vecchi hai tutto drappato. Dice, chi ti vecchi hai visto da fessa e coccato il letto? Che te vecchi hai posto fuoco e frenato a benzina. No, chissà, tu hai detto quella che ho detto già? No. Che te vecchi hai visto da fessa e coccato il letto? Allora, vedi che sei morto. No, lo so. Cacchio, ma ce ne sono tante, cacchio, ma proprio i su delle spine dei ficcolini a manzanini non so cosa fai, a sera non so cosa. E se non ricordi che raccontano i buzzinosi. E ti immagini che a cena la mi batte la cindria quadrata. La cindria quadrata? No, la cindria quadrata. Le angurie quadrate ce le avevano fatte. Eh no, se l'avevo sentito. No, dice che ha fatto gli zinaresi, poi mi hanno sempre con gli zinaresi, dice, ah sì, non hanno fatto dei fuochi d'artificio, lasciatemi, hanno fatto diventa un capannone, ma non fate di vedere a noi. E la zinaresi che fate guardata, ma non fanno rubirati a Zeus. C'è una cosa, ed è la lampada di Aladino, c'è fuori il genio, che gli dice, esprimi un desiderio, ma ricordati che tutti i desideri che tu esprimi saranno raddoppiati per i zinaresi. E allora si pigli una Ferrari allo Zenarese 2, sì. E si domanda 2 miliardi di euro allo Zenarese 4 miliardi, sì. Allora vedi una cosa, cavetemi un occhio. Sì. E allora, questi lo fanno già di tutto. E alla torre sono lì, un sussinco ha fatto una fratemma all'arbitro, guarda, allucinante. Una fratemma all'arbitro, cosa l'ha detto? Dito, arbitro, anche ti venga un cancro, anzi lui, uno curabile e l'altro no. Ma pure come hai visto? Hai pensi già? Per carità. Sì, sono dei frasi, ma io c'ho un collega che su Cinco, ma tu le certe battute, guarda che non riusciresti mai a pensare. Guarda, sono una simpatia allucinante, proprio è nato tipo i napoletani, poi i napoletani sono più falsini, dai, questi sono più, cioè sono più sbalizzati, non sono falsi, non hanno la falsità come mai può essere come qualche altra zona, loro si fanno in base a macchie e poi non sono macchie, invece sono più intelligenti di noi. Gesù 5, Ursino Zuzia, e se non mi ha attaccato a ridinarmi, non ho detto la cosa che Gesù 5. No, no, invece tu sì che di manco, magari sono più furbi, nel senso non riescono più a entrare nei posti di lavoro, cose del genere. Più attaccare di naso i sennaresi, infatti gli dicono sono i genovesi sardi molte volte. Ehi, sennaresi sì. Ehi, ma di tu sì che non ve lo dici, ma già lo so. Cazzo, lo so, attaccare di naso, chissà niente, che tu manco te lo immaginare, se no sono l'altro. Ah, sicuramente come carattere sono più socievoli, gli altri parliamo in generale, poi ci sono tutte le differenze, perché poi si sono tutti mischiati i caratteri, sassaresi con sussinti, sussinti con sassaresi, con sennaresi, eccetera, eccetera. Parliamo come ceppo, i sennaresi erano più riservati, più soli, diciamo, come persone, mentre i sussinti erano più di compagnia, dai. Che siano in compagnia, questo è poco ma sicuro di sussurci, ma io non li punisci da un pezzo. E diciamo sto bene qua. Ma questo è me. No, io amici su sì che non ho a male, ma sono grandi lavoratori, poi sono persone che quando li metti a lavorare sono un bel conto. Però si deve dire, mica per un travaglio deve stare tutta la vita senza far nulla, e loro sono i primi a mollare tutto. Beh, io non bevi. Prove. Dimmi già. Prendo il carne e fa, abbiamo rotinato tutte quelle maschere, ce le prendete, quelle che si attacca la faccia di vecchio, roba del genere. Cosa ha fatto questo mio collega? Ha preso e ha messo la maschera a questo manichino che ci avevamo, in più gli ha messo il cappello e gli occhiali sui e l'ha messo vicino alla porta, a casa di volta che stava le commesse, ah, mi asciuccio. Ci bilavano la succia. Allora, le combina in tutti i colori. No, ma poi c'hanno un'inventiva, una cosa allucinante, cioè tu rimani a bocca abbessa, molte volte dici, ma come ne ha fatto questo? Io l'ha fatto uno, non ha partita, per dirti. Avanti Pierpaolo. Non le sento per qua. Io lo sento, anche se non ci lo sento. Avanti. Ehi, K, vuol dire non ha voglia di entrare. E così, Robe, sono molto simpatici. Però a volte già sono un po' caroniette. Allora ha fatto stare c'è un sussinco una volta, una partita di pallone a Sorso, Romagna, non mi ricordo con chi era, forse qua a Romagna. C'era questo tipo nella gradinata, c'erano una gradinata nel campo vecchio, al vecchio campo al Madao, e ci stavano ascoltando la partita, questo c'era una radiolina un po' grande, non dico un radione, una via in mezzo tra una radiolina e un radione, non so come mente, ne stava cadendo dalle cose, e l'ho trovato dalle scale, stava per cadere giù nel fosso dove ci sarebbe rotto dentro, si è buttato per te l'ha presa, oh, grazie, la cambia di recutare un muro. Si faccia la domanda sì. Tanto mi metti da ieri. Era amici, quella è stata una cosa spontanea. Una via di un tipo, ma un uomo grande è me già. Stavo camminando una via di Sorso. Si rifanno la macchina, scende dalla macchina, stava passando una tipa, una bellissima ragazza, gli si mette davanti e si ingiunisce e dice, ah, che cosa vede, una madonna, sì, da me tra tutti ha bloccato il traffico. Allucinante, siamo comici brutti. Va bene, io riprendo a casa che sono arrivato, mi cambio e riprendo a casa, ci sentiamo. Ehi, a me la cari. Ehi, capa già, io chiudo là, ti saluto adesso. Se no magari poi non mi senti, io faccio quello del tipo, perché me ne vado a letto, eh. Ci sentiamo alle prossime, che purtroppo vicino al letto non ce l'ho, ma parecchio, perché mi sono usato il cavo per la discone, e ce l'ho il cavo, però non so dove l'ho messo, ma ci credi Robert? Che non mi ricordo dove l'ho messo, non sono riuscito a trovarlo di nessuna delle maniere, per farmi lo spezzone lungo. Ma cavo di che cosa? Il microfono o la parola? No, dell'antenna, un cavo, un pezzo di RG58 mi serve, tanto per parlare quando sono con il capo. Ah, vabbè, la chiudo, tanto così mangio qualche cosa nel frattempo. Dai, ciao a tutti, ciao Natalino, ciao Gianni e tutti gli eventuali ascoltoni in canale 16. Ciao, ciao. Ciao, ciao, vabbè, le prossime. capitano se lo vuole. Vediamo a Massimiliano se si vuole rinnovare quello suo. E vabbè, tanto è venduto quello là, te lo puoi comprare tranquillo. Sempre apparecchiatura. Mi adatte. Oh yeah. Vabbè, tutto bene ciò che finisce bene, io gli accetto gli scherzi, non ho accettato solo uno di scherzo che mi ha fatto, mi stai fare a domani. CP. Di denuncia, me lo già. Bobo, cabbi macco. Ma guarda che mi è successo più di una volta, me. Una volta anche a largo di Porto Torres, ne avevo preso uno e ho chiamato la capitale del porto. E sono andato a recuperarlo. Un tipo con un gozzo. Parla seriamente, dopo se tu sei giù cazzato, cosa ne so qui? E beh, e dice io sì, e appunto per quello ci ho creduto, perché l'ho detto seriamente. Tratto Marco, mi ha detto cose, non ho capito la stavi sicuro pure tu che era così, perché mi sembrava troppo sicuro. La recensione com'è? comunque lui ci ha provato, ha detto che a un certo punto si è arreso, ha detto ci ho provato anche stasera controllando il libretto, ma mi sono arreso perché non ero papà e me. Facilissimo da manovrare, me l'ho sintonizzato tutto io quello lì. Quello, comunque la Polma l'ha fatta sempre dei buonissimi apparecchi, quindi non lo mettevo in dubbio che era buono. Infatti mi stava un po' meravigliando. Il Polma ha sempre fatto dei buoni apparecchi, anche Baracchini faceva. Vedi, senti una stazione che ti piace, per fermarla devi mettere il nuovo scanner. sarebbe stato meglio se partiva lo scanner direttamente, mi sarebbe se blocco tastiera, di modo che non si nota il lungo. Yeah. piazza San Franco tra due posti diversi. Avanti Antoine. Sarà così. Come, cioè, me ne sono accorto stasera, perché sotto io giro sempre, ma non lo sentivo mai stasera, me ne sono accorto di questa cosa qua. Propagazione. Cappa, non sento nessuno io, no. Tu che fai? Questa cosa il coperchio funge come i gommini che si entrano nei nostri apparecchi normali, dai, quelli in gomma. Dell'apparecchio indica che sono lì dentro. No, dice che è un monito di auricolare. Pensavo che ci fosse qualche vano per mettere auricolari lì dentro, capito? Lo sapevo come, magari ho detto una volta che sviti è tipo cassettino col vano per metterci l'auricolare, no, allora non è così. C'era qualche cassettino, qualche tipo un alloggiamento, dai, per le cuffie, per il bar, le cuffie, l'auricolare. E non mi sa che l'auricolare dovrebbe esserci, perché c'è scritto completo di auricolare e culla per il caricabatterie. Secondo me anche la batteria è come il cellulare, c'è una riuscita molto buona. Lo so, Matto, ma poi se quando finisce cosa fai? Ma non lo so, se si ritrovano. Penso di sì, magari loro sono forniti. Gli hai chiesto se c'hanno i pezzi del ricambio? Capo, chiediglielo. Chiederò, chiederò. Non c'è problema. Oggi era tutta pimpante. Desiree. Passami! Quindi non lo puoi usare neanche a corrente. Sì, è un trasformatore, no? Perché tu adatti la corrente a 200, da 200 metri a 3,7, quanto è quella batteria? Anche io così. Attacchi un cavetto e se tu vuoi fare registrare le frequenze, attacchi un cavetto e te le registra da un apparecchio all'altro, quello che stai dicendo. Ma ci vuole il cavetto. Non c'è il cavetto compreso. Però come si fa? Sì, nel WX2 ce l'avevo con lui, lo sai. Ce l'avevo, però quello lì non era solo ricevitore. Faceva ricevitore e trasmettitore. c'era io, lo conoscevo già questa funzione qua, perché ce l'avevo anch'io. Però ci voleva il cavetto, ce l'aveva Stefano il cavetto. Buona sapersi. Mi è arrivato ste e non prendeva le memorie, lampeggiavano quando lo impostavi e poi non le prendeva. Non so che dire riguardo. Ho avuto l'Olinto, dici non so che cosa, da 0 a 1200, fino, quello era molto bello. Poi ho avuto il VR5000 Vettaglia ESO, mi sembra. Comunque sono dei belli apparecchi. Adesso mi sto facendo mandare in sostituzione di quello un Polmar che è già arrivato ad un amico che l'aveva ordinato ed è veramente carino. Ma tu fate sempre? Cappa. E da quanto fa? Mi pare che sia da 150 a 1300. Oggi è buono. Ma poi devi vedere, è fatto nuova generazione, c'è la batteria tipo cellulare, il tastino acceso spento, come tu lo accendi si inserisce direttamente il blocco tastiera, poi tu per sbloccarlo devi dare un'altra cliccata, lo clicchi di nuovo e si sblocca. No, è carino come apparecchio e poi molto funzionale, mi stava dicendo Pierpaolo perché l'ha sintonizzata quest'amico e mi ha detto che è molto funzionale, molto facile da usare. Immagino anche le bande laterali per caso. No, quello non penso, vero Pierpaolo? Ho capito, FMV, FM stereo e AM eccetera, no, bande laterali niente. Il mio sogno sarebbe averne una stazione base di quelli lì. Il tuo sogno, comprendi un dio. Troppo costa per me, altrimenti sarei 7.000-8.000 euro. No, spendere così no. Costano un bel, ce ne sono anche da 21.000 euro, non ho capito. Costano un bel soldi, ste. Ci hanno analizzato di spettro anche tutto quanto questi apparecchi così. Lo so, ma a questo punto non conviene prendere una scheda, cioè la IRC mi sembra della ICOM. La vedi nel computer, c'è tutto quanto lì. Lo so. E dove ne si dice questa scheda? Sempre la, nel coso, nel case? No, quella è una scatoletta. L'attaccare che ha USB, l'attacchi, gli attacchi l'antenna, dopodiché installi il programma suo e c'hai tutto nel computer, il dato di spettro, tutto quanto, tutto sotto controllo. Non mi interessa, ti interessa. Meno forse la per un paio di cento, paio di 100 euro, anziché spendere 8.000 euro, uno c'è una cosa lo stesso sul computer, con canali limitati, perché puoi organizzare quello che vuoi, poi hai detto rispetto, addirittura il CV doppio se ti viene con il punto lì, lui te lo traduce automaticamente, fare il TV e tutte le cose, tutto quello che vuole lui traduce. Tu l'hai mai avuto questa scheda? No, io no, ma ho avuto modo di vederla collegata con un apparecchio ricevitore al computer e quindi l'ho vista. Ah, devi avere anche il ricevitore oltre alla scheda. No. La scheda fa da ricevitore, capito? Ah, ho capito. Buona sapersi, che qua è al corrente. Sono cose interessanti, vedi, io non lo sapevo che potevi avere una cosa del genere. Ma so di tanti programmi che ci sono, però di questo qui non avevo mai sentito. Stefano è più addentrato in queste cose. Sì, che la vende. La vende? E basta guardare su internet, si cerca. Come si chiama? Ha un nome particolare, Stefano. Aspetta, ma che è da ICOM? Aspetta un secondo, che le controllo, te lo dico subito. E via. Aspetta, ma dimmi, ma tu puoi fare il tuo che ne hai? Sì. Ma non me la puoi dare qua? Sì. Gabriel, 10.959, chiocciolina, hotmail.com. Aspetta che me lo scrivo un attimo, aspetta. E così è comodo. Beh, sì. Se così già è comodo, vero? C'è anche un dato di spesso. Se è comodo. Eviti di fare una spesa grossa e avere le stesse cose, le stesse funzionalità. Anche se a me mi piacerebbe per la stazione fare, mi servirebbe per fare stazione, là. Aspetta, io voglio dirmi, Gabriel 10 1959 chiocciolina hotmail.com. Quindi allora 10 1959 tutto attaccato. 10.959 tutto attaccato, chiocciolina hotmail.com. Ok. Premaestro, sì. Sempre maestro, sono io. Cosa, ti mando un link in un come si chiama? Una serie di negozi dove c'è roba usata. Sì, mi fa un piacere, così vedo, prevedo e provvedo. E magari c'è qualcosa di interessante. Per apparecchi radio? Sì. Vabbè, mandamelo che... Anche se i soldi ce ne sono pochi, ogni tanto già qualche pazzia la faccia. Ma su Facebook ci sei? Papà. Aspetta un secondo. Ma non è già che qualche parente tua dovrebbe essere una squadra di ballo per caso? No, io l'unico parente che io ho a Olbia è mio cognato ed è fratello di mia moglie. Però non si chiama da mio cognome. No, assolutamente. qualche giorno ti parlo, perché c'è una scuola di ballo e ha il tuo stesso cognome. Forse pensavo che fosse qualche parente tuo. Vabbè, un attimo che vado su internet, una seconda, riprendi. Voilà. Chissà cosa è interessante, è molto interessante. Adesso mi informo a vedere. Basta controllare, basta cercare. A me già mi piace a seccare. Una curiosità era. ma non è un valvolare, assolutamente, non è valvolare. Da quel tipo di timbre qua così particolare, da. Ma si assomiglia un pochino, là. Una bella voce, là. Stefano, Giacomelli, Bobo, chi Stefano? Forse mi sta mandando l'email con i link. Così vado a vedermeli, poi li apro e li vado a vedere. Poi se mi interessa non me li metto le preferiti. Adesso già stavo pensando di pigliarmi 760. Ok, fatto, fatto. 760. È superiore a me allora. Oh, 760, quello Intec, nuovo uscito, quello che c'è la colonnina frontale. No, mi sembrava che stavi parlando di Magno. Mandate a veste. Sì, l'ho mandato. Vabbè, lì c'è un link, c'è di tutto, da. Vabbè, poi te lo vedrai. C'è i venditori, vai nella pagina nuova, tu poi troverai usato, premi lì e c'è un po' di roba di materiale. Molte volte è pure curiosità quello che si fa. Mi serve un osmetro, accordatore e wattmetro. Nuovo. Io non ne ho. Ho un wattmetro che si fa un televisore qua. Non c'era quello della GBC? No. Mio è il Magnum, è grosso, sembra un televisore. Io c'ho. Oh, lo strumento della ZG che fa accordatore e wattmetro e rosmetro, però l'accordatore è partito, non funge più. Non lo so, io quello che ho è fa solo wattmetro, per collegare quattro antenne, perché c'è quattro prese, ed è enorme, grandissimo, sono molto preciso. Beh, della Magnum, chissà che tu cosa butti. Non lo so, non l'ho neanche collegato, guarda, ce l'ho in terra lampato, perché sono tutte le cose che ci ho buttate, mi devo rifare la stazione, se non ci sono mai a casa, una cosa e l'altra. Cioè, non è che si è buttato, perché dai, diciamo che è appoggiato in terra, ma insomma, devo trovare un po' di tempo anche per quello. E ogni tanto mi sentiamo anche a Vittorio Volpe. Ogni tanto fa cucù e poi scompare per un periodo. Per resta anni senza parlare. Sì, ma lui ha detto che ascolta molto, ci sente sempre. Sì, se lo senti da parte mia salutalo. Comunque stesso mi è arrivata a Olbia e da Sassari, è un record. Me l'hai detto l'altro giorno, sì. Beh, quel Mike è venuto là. Quello lì, ma ti spiego. Quello lì Natalino aveva detto che praticamente gli serviva quel microfono lì ad Alessio, però poi quando io l'ho chiamato davanti a te mi ha detto che non aveva soldi e che cavolo non poteva comprarlo, e dice piglia di Dudu, ho preso, io me lo sono comprato, poi gliel'ho ridato a lui perché sapevo che gli interessava e non mi piaceva approfittarne cose, capito? Non sono cuscicari. No, non mi sono spiegato, o mi hai capito male. Tu l'altro giorno mi hai detto che ci avevi un sapere da vendere. Venduto. Quello, volevo dirti, venduto l'hai. Farò quello, va bene, non prendo il resto, non mi interessa. Sì, cosa deve fare? No, pensavo che stessi di fare da quei microfoni che mi hai venduto. No, assolutamente no. Sì, l'ho venduto, Ste. L'ho venduto ad Antonello. Ha cercato di piazzarselo, dice che non funziona, che secondo lui non funziona, ma non ha mai piazzato microfoni. Non Antonello Alicia, ma Antonello l'amico di Mario Masen, da. E ho detto fallo piazzare da una cosa a piazzare, io lo stavo usando. Senta, ce l'avevo attaccato all'apparecchio, poi gli ho tolto la batteria, l'ho messo da parte, è possibile che non funzioni, poi l'ho provato prima di cose e andava bene. Sì. Beh, credo di sì. Momolo. Anto. Si è allontanato, ste. E quindi tu la roba te la stai tutta ricomponendo di nuovo? Sì, sai già, ogni tanto vado a qualche sito. Ci sono delle belle occasioni, ma sai, non si può fare conferenze da baracchini, capito? Vabbè, lo so. Vabbè, ma la passione, ste, è una cosa che rimane. Io sono stato 10 anni senza modulare, quando ho risentito a Mario Mao, a quelli di Cava, mi è rivenuta la voglia, mi sono comprato l'apparecchio. Però abbiamo ricominciato tutto da capo, Natalino, quello, quell'altro, abbiamo, ci siamo ritrovati, abbiamo deciso di spolverare tutto e siamo rientrati. No, ma la passione secondo me, se uno ce l'ha, a meno che uno entri per rompere le scatole, il baracchino, ma se uno ce l'ha, la passione se la tiene a vita. Sono d'accordo con te, no, è chiaro. Anche noi, cioè noi, io la stessa cosa, insomma, abbiamo visto delle belle radio che ci sono a buon prezzo, c'è un sito olandese che lì è pieno di roba, ma veramente a pochi prezzi, però qui non ne mandano, capito? Qui non spediscono niente. Non lo so, non è una formula, diciamo, se te lo faccio vedere, cioè, ma non andare se tu non lo capisci, ma ti posso mandare il link e vai a controllare cosa c'è sulla 27 MHz, è pieno di baracchini, di microfoni, alimentatori finali, lineari, antenne, di tutto, a pezzi veramente proprio due soldi. Beh, ci saliamo con un furgone, facciamo il carico e poi cominciamo a vendere, ci prendiamo un negozietto. Si potrebbe anche fare, ma non solo quello, io ho per esempio delle radio antiche, sai quelle radio vecchie a valvole, che funzionano, allora ne ho due di quelle più una transistor con insomma con 20 bande più il VHF, più un telefono antico, un Ericsson vecchio antico, più un risalatore della Akai, il bobine. Bobine, autorevers, sono 5 pezzi in totale, non riesco a venderle. Allora, le radio, non lo so se potrebbe interessare a Roberto Quadrato, perché Roberto è appassionato di quella radio lì. Sono due radio antiche, la marca non me la ricordo, ci devo dire, un negozio che praticamente il padrone è andato in vacanza in Inghilterra e non si è più visto. Se ne è fuggito. Roberto, io ne ho visto parecchio a casa sua e ne ha una addirittura che ha, oltre alla radio c'è anche il televisore in bianco e nero. Sì, quello l'ho visto anch'io. No, come dicevi tu, bisogna prendere un bel furgone, andare su e in due giorni, perché i mercatini le fanno sabato e domenica, andare lì, il mercatino prende le forme e ritornare. Con un furgone bello busato, bello carico. Lo so, bisognerebbe avere un punto d'appoggio, tipo un magazzinetto, lo so, un negozietto, dove, tipo Portobello così, dove la gente possa fluire. Ma va bene, ma il punto d'appoggio non c'è problema, perché Portobello è un amico mio, ma lo spazio me lo dà, capito? Paga. E se non te la fa anche comprare la roba? Sì, in questo avevo già parlato con lui, ma non adesso, no. Lei sarà 4-5 anni fa che avevo parlato con lui. Io praticamente gli porto meglio, cioè gli offro la mia esperienza, tutta la mia conoscenza del Nord Europa, andavo in giro a comprare mobili, sedie, divani, tutto quello che voleva comprare lui e poi tornavamo indietro. Però già ce l'hanno il camion bello City, tu. Ma quel camion lì non va bene per uscire fuori. No, ci vuole un camion serio. Però lui si va a carriera, visto? Non puoi andare con un camion così, tutto fumoso, ma... vabbè. Io, già lo so, lo conosco anche io. Ma ci frequentavo molto a Portobello prima vendendo un bel di roba, più che comprare la vendevo. E adesso non sto più andando perché non conviene più per 2.000 dare le cose, capito? Ne vendevo le cose, per dire, quando mio moglie mi diceva dai facciamo un po' di ripulista, questo e quell'altro, magari era una roba che funzionava e cosa, però che non usavamo più, prendevo e le portavo lì. Ah, io ho capito, sì sì. No, ma non volevamo fare questo tipo di discorso. Gli ho detto, io mi porto, mi pagate perché grazie se non ci vengo. E ho detto, voi organizzate un bel camion, facciamo un carico. Oppure, se non volete portare un camion, c'è un camion di un mio amico che è su lo stesso. E basta fare il pieno, diciamo, per riempire il camion. E poi non glielo porta qua direttamente senza stare lì a romperci le scatole. E infatti, e vabbè, ma la scelta della merce mica la può fare tutta in un no, noi andiamo in aereo e andiamo alla merce, la portiamo da dove c'è il tir, quando il tir è carico non va, non scende qua, capito? Ah, quello sì, pagato. Tanti discorsi possono fare lì, perché lì vende una roba, una cazzata, quanto mi viene tutto. E qua, capito, sono cose che se le vai a comprare costano meno. Infatti io, l'anno scorso l'ho portato queste due radio, l'ho portato qui e non funziona, cioè non funzionavano. Le ho accese, però non avevo segno di vita. Ho pulito un po' dalla polvere, ho mosso un po' le robe, questo e quell'altro, se sono accese funziona perfettamente. Probabilmente non le faceva fare contatto la polvere. Sì, sono già un poco vecchie. No, bello quel pezzo, come si chiama, quel registratore della CAI, a un meter, bello, quello è un'altra con le bobine incorporate. Bello, quella è una bella macchina, sennò che è grande, quella bobina, ma te la metti in casa? Un amico che di questi registratori a bobine era appassionato alla grande, solo che adesso non ci sentiamo più perché ho bisticciato e così, per colpa sua, perché si è messo a fare lo scemo con delle amiche di mia figlia e mi sono incazzato. Ho capito, no. E quindi io adesso appena arrivo a questo, dall'Inghilterra mi porto via tutto, me le porto qua e vediamo cosa farne. Di quelle radio, sono tre radio, tre rispetto, più un telefono antico e questo registratore. Pastor, ma dove te la metti da questa roba? Cosa c'hai? La cantina? No, me la porto qui a casa. Pagava. Perché io più del tanto che ci sta nella stazione, non... Sì, ho qualche cosa in più, però mia moglie, mamma mia, non mi mette l'altra radio, c'è già abbastanza. No, io prima ho un riposteggio mio dove c'è una scatola, un cassone di legno, bello chiuso, tutto quanto la vede, sono tutte lì. Le metto dentro le buste, poi le chiudo, le sigillo con il nastro e poi le metto da parte. Per adesso sono lì, ogni tanto la tolgo uno, lo accendo, lo uso e via. Avanti, Angelo. Gappa, bisogna usare le cose ogni tanto, se no si rovinano. Progressione c'è, lui è. E ieri mi dirò un bel. Già, questa strada ste non si fa. Ma stai zitta, oggi, ogni giorno la faccio io. Lo so, a me una volta scendendo quel discesone che c'è, non discesa lunga, lì questa macchina sono passata in terza corsia e mi stava venendo addosso, mi sono dovuto buttare tutto sulla destra, se no ci prendeva tutti, eravamo anche con la panna invece che con la mia. Siamo andati con la macchina di mia moglie, c'erano i bambini, mia moglie, io, tutta la famiglia proprio disintegrata. Beh, ma diciamo che la strada non è che pericolosa, sono tutte le strade pericolose, ma quella in particolare, ma è la gente che corrono, sorpassano, fanno, guarda, li fanno di ogni colore, io tutti i giorni sono sulla strada e lo so, te lo sto dicendo, ma sono di ogni colore, quindi se la vanno a cercare proprio, Sì, sì, infatti, diciamo che c'è la strada a quattro corsi e rischiano ancora di più perché si sentono autorizzati a camminare di più, capito? Diciamo che con la strada stretta c'è più pericolo perché se è a due corsi è normale che si prende la macchina di fronte. Anche con la discesa per andare a Urbia lì, cavolo, sempre cazzo sorpassano, c'è la linea continua, sempre sorpassano e corrono come pazzi, anche in cunetta, ma nel dosso si mettono a sorpassare. Sì, perché si fidano della macchina, capito? Lo fanno solo per quel motivo lì, perché si fidano della loro macchina, sanno che schiacci e va. Però non è così. Perché ripeto, io ogni giorno sono tenuto il debito di cose, ormai non ci faccio più in casa, però sono quello che ti fa fastidio, però il controllo c'è ma non fanno niente. Diciamo che per dare più sicurezza la strada dovrebbe essere fatta, però la prudenza delle persone è la cosa principale. Se non c'è la prudenza, Elisa ha ragione. Non puoi camminare come passo così come cammino. Questa qui era una di quelle Mercedes, quelle piccole, ma sono passato in terza corsia, addirittura sono passato una macchina che stava già sorpassando. E poi continuava, visto a me che stava arrivando, continuava a sorpassare, non è una fottia nulla, non è che rientrava. Si fa fare passare su macchine, bisogna cominciare a ritirare la patente, davvero. Guarda che la gente che passa queste macchine che va. Ma se riescono a sbattersi anche in rettilineo, pensa tu. Sì, con visibilità al 100%, non esiste, guarda, non temono né punti della patente, né la vita umana, niente, proprio né la futtinuta, certe persone camminano come razzi. Io vedo anche sulla Budi che è una strada simile, come camminano. Una mattina stesso stavo andando a pescare alle 4 di mattina e lo so, perché un amico mi aveva detto già, forse vengo, ma non ti do la parola sicura, poi mi ha telefonato e mi ha detto guarda, non posso perché è venuta gente a casa e non ce la fa, ho detto vabbè, non c'è problema, già vado domani mattina, devo mandare di sera. Beh, fatto sta che mi sono andato presto per prendermi il posto, perché arrivo alla curva che c'è. Alla Budi poco prima di Villa Fiorita lì, con la semicurva, e trovo due macchine sbattute frontalmente, un ammasso di cartucce, proprio qua, accartocciate, ho detto cosa fare, cosa non fare, prendo, metto subito le quattro frecce, il triangolo, mi metto subito il giubbotto, la prima cosa che faccio vado a vedere le macchine, tutti e due come erano, in che condizioni erano, uno era fuori dalla macchina in terra, una ragazza era praticamente sotto al sedile tutto portato avanti ed era sotto, proprio sotto al bruscotto, quello che era a fianco alla guida. Il tipo incastrato, tutto fatto, qui non facevamo qua togliere. Allora la prima cosa che ho fatto, ho liberato quella ragazza, l'ho portato il sedile dietro e poi si è fermato un amico mio che fa il servizio ambulanza con me, mi ha dato una mano, l'abbiamo tirata fuori con la ragazza, era già in terra, perché la macchina stava già fumando, abbiamo cercato di aprire il cofano, ma come lo aprivi, era una massa di cartucce, era tutta cartocciata avanti, ed erano due tipi sbronzi praticamente, che ha affrontato la curva a tutta velocità, sono andati addosso a questa coppia che era tranquilla, stavano tornando a ballare tranquilli, cazzo, l'hanno fatti, come li hanno ridotti, non gli hanno fatto niente, scommetto. Ma quello che gli hanno fatto non lo so, però io ho chiamato i soccorsi, ho chiamato Vigili del Fuoco, gli ho chiesto almeno di mandare due squadre di polisoccorso, perché erano due macchine coinvolte, erano tutte e due accartocciate. Uno è riuscito a uscire, ma come è uscito dalla macchina è svenuto e caduto in terra. Però, a parte che erano molti che di vita, va bene. Però si sono fatti anche un bel male qui dell'altra macchina. Ecco, il ragazzo che stava guidando di quella coppia era incastrato, ci aveva lo sterno incastrato, il volante proprio che li comprimeva verso lo sterno, e probabilmente gli stava anche mancando il respiro, però non mi sono fidato a toccarlo perché ci aveva anche la lamiera incastrata nella gamba. E addirittura, comunque è così, nessuno fa niente, continua a morire la gente, nessuno fa nulla, non ne fa niente nessuno. Perché ci vorrebbe la legge dura. Fammi andare, fai dritto a vedere se queste cose le vedi o le senti, o se te le permettono. Ciao. Perché le leggi sono dure, sono. Ma non un sacco di porcherie di leggi che non valgono a niente, però le leggi giuste no, non le applicano mai. Intanto io non so cosa avrei fatto fare, come stanno facendo per gli autisti dei camion, fare le analisi del sangue per vedere se sei tossico e se sei tipo che beve, perché quelle analisi lì risalgono sia 2 mesi prima di quando fai le analisi, se tu bevi 2 mesi prima te lo legge. Sì, lo so, però purtroppo già, anche lì è discutibile la cosa, adesso non voglio stare a dire cose qui in presenza perché molte cose non puoi neanche dirle, perché non si possono dire, però anche lì ci sono dubbi, è dubbia la cosa. Perché c'è libertà di parola se non siamo nel paese del filo del fascio. Lo so, però certe cose preferisco non dirle. Ma comunque, se tu ti riferisci al fatto che uno può scambiare l'urina, roba del genere, dicono che il medico legale ha la facoltà di vedere mentre la fai per vedere se è proprio quella tua o se è quella di un altro. Ma io a quello mi riferisco. No, perché quando uno ha le persone, caso strano, chi l'ha fatto l'incidente o chi ha causato, la fa sempre franca, sempre. Non so se c'è la conoscenza o cose del genere, magari. Sì, ma questa storia delle analisi le farei fare a tutti gli autisti, compreso me. Infatti io non ho niente a temere, se non bevo, non mi drogo, per cui non c'è nulla da temere. Chi ha da temere è chi beve e chi si droga. E a quelli gli avrei preso la patente e la via più turlata. No, vabbè, dai, io mi auguro. Io purtroppo devo chiudere, dai, vi auguro una buona notte, sono Stefano e anche a te Gianni, buonanotte anche a tutti gli ascoltoni, esci il fuoco, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte, sentirci, buonanotte di nuovo, avanti Gianni. Ciao Antonio, ci sentiamo, buonanotte, buon trabacco per domani. Hai capito, è così. Ci sono delle manfine da tutte le parti, questo si sa. Ehi, va, meglio non parlarne di quelle cose, guarda, veramente, perché mi si girano le balle. A te per dire, ti hanno chiamato a fare questo tipo di visita, io so che ad amici e cose li hanno chiamato. Ma io le faccio, ogni anno non le facciamo, siamo dal medico del lavoro, lì in zona industriale a Olbia, dove c'è la finanza, e fanno tutti i controlli. E non è a dire che per dire che oggi non bevo, ieri ho bevuto e oggi non bevo, se ne abitare non mattesce. Ma se si beve in Campari, quanti giorni ci vogliono per smantirlo? No. Quanti giorni ci vogliono per smantire un Campari, dal fegato diciamo, Quella lì è bella roba, con la soda caustica poco per rimani. Purtroppo ci sono anche persone che fanno il stesso lavoro, che tutti i medici sono in bar, bevendo, dalla mattina alla sera. Eppure lavorano, fanno, e nessuno dice niente. Ma mettono a repente della vita della gente, specialmente di quella che trasportano pure. Appunto, io che non fumo più, non bevo, non questo, non quell'altro, ma quello lì. Ma... non fui più da qua. Sì, direi un giorno. Sono 6 anni e non fumo più, da 5. Io ho smesso 8 mesi e poi ci do una pigliata a fumo. Bravo, sì. La verità, ho smesso perché dopo che Natalino ha avuto quell'infarto, sono stato io a proporglielo di non fumare più. E lui ha detto, vabbè, dai, ci mettiamo d'accordo, visto che siamo insieme, non fumiamo più né uno né l'altro. E invece quello mi ha tradito, gara. Sta rifumando, vero? E allora, alla grande pure. E quindi un giorno lo vedi, 2 giorni lo vedi, per la tentazione e poi ci sono cascato. No, no, io no, proprio no. Mi dà anche fastidio la parola della sigaretta adesso. Che fa così, anche quando avevo smesso era così. Quando per dire fai agire lunghi o cosa, come lo sostituisci il coso della sigaretta, la voglia di fumare e cosa? No, ormai non ci penso più, non è più, diciamo che non, niente, non ne sento il bisogno. Ti sei proprio liberato totalmente dalla sefazione? Sì, devo dire sì. E ho anche messo qualche chilo in più. Quello a me non mi interessa. Che non mi interessi per te, non te ne vuoi sentire. Non mi interessa metterlo io se smetto. Aspetta che ti cerco su Facebook, aspetta. Ti leggi? No, 3 anni o prima, il primo che non avevo ancora il cognome. Ma non me lo ricordo come, non me lo ricordo. Prova tutti e due, non me lo ricordo come l'ho messo, già di me lo so. Non parla anche io, ti sei messo, no? Troiolo. Non te l'aspettavi, Che bello che sei. Ero anche più robusto, adesso dimagrito un bel. Ti ho inviato la richiesta, almeno ci becchiamo anche lì. Va bene. Loro, beh, ne ho tanti di amicizie, ogni tanto mi mandano qualche cosa, mamma mia, questi. Accetta l'amicizia di questo, accetta l'amicizia dell'altro. Ci sono persone che non conosco, capito? Non mi fido. Io vado solo alle persone che conosco. Sì, no, ma io ho anche... C'è qualche polacca, ci sono giapponesi, ci sono gente dalla Spagna, io ho un bel po' di gente io. Eia. No. Non neanche io. Ma diciamo se che io entro molto poco, Ogni tanto do uno sguardo, ma non è che stia pensando come prima. Non mi piace troppo su Facebook, no, la verità. Entro più su Badu, c'ho che amicizia su Badu. Oh? Su Badu? Cappa. Io mi sono tolto da Badu. Ti sei tolto? Come mai? Ce l'avevo quanti anni, boh. Non poi ce l'ha avuto, però non ho mai messo una foto, mai niente. Oh, io sì, io la metto. No, io... Una volta mi hanno detto, brava, soprattutto non ti sei messo, e poi, cavolo, c'ho già 2 anni, Badu, ma stai scherzando, e contatti mi ha avuto, mi fanno, e però manco uno, per forza, non mi metto neanche una foto, prova a mettere qualche foto, vediamo cosa succede. E poi l'ho fatto. Ho messo una foto, zio. Ho messo un paio di foto e iniziano a commentarmi, però poi è diventata una cosa pesante, capito? Ora non potevo più, non potevo, ecco. Vabbè. E poi adesso ci sono di nuove forme di Badu, no? Praticamente ci sono delle amicizie che siete voi, per dire. Tu ti metti in gioco, dici, per dire, ho 40 anni, eccetera, eccetera, e ti descrive, e ci sono, per dire, delle persone che potrebbero andare bene per te, che te magari te le vogliono accoppiare, caso, come amicizia, come, e ci sono, ti contattano, capito, queste persone. Sento via Romano De Vasco, sia la Sardegna dell'Andra. Hola hermano, buenas tardes. Aquí la Sardegna y tal. Hola hermano, ¿me entiende? Ya te entiendo. Hola hermano, aquí la Sardegna. Hola hermano, ¿me entiende, por favor? Oh, esperito. Siempre que si españoles sono un po' incazzati, perché a volte li prendono in giro, li trattano male, da poi non fanno diventare più nessuno. Yes, me lo scosero dalla parte di Foggia, ho messo proprio sul baracchino. Dove te l'hai messo? Eia. E l'antenna sono specchietti. Magnetica, no, l'ho messa sulla tua famosa magnetica, l'ho messa da una parte. Vabbè. Sì, a Foggia è pieno ancora, ma non ti viene il freddo, non ti fanno entrare neanche se... neanche se li spari. No. Tutti i roba locale a Bari, sono stato anche lì a Bari, anche lì sì, con qualcuno ho parlato, però non ti consigliano proprio. Cioè per loro dove sei conservato se fai di ex, altrimenti no, manco ti cagano. Sì, sono i camionisti. Due anni di poter entrare. Parlano tra di loro perché si conoscono tra di loro, giustamente parlano tra di loro, giustamente, quindi dovrebbero fare tre altri, e non ti ha fatto ascolto. No, me ne sono andato in una montagna, in alto, e lì ho cercato di contattare qualcuno, però guarda, ti ripeto, talmente loro, ma tutti forti, tutti segnaloni grossi, tutti fortissimi arrivavano proprio. Non riuscivo a entrare in nessuna parte. Ma forse lo sentivano loro? Non lo so, a Bari sì, ho parlato con qualcuno, però non... quasi niente. A Foggia uguale. Sì, ruote ne fanno, c'è un po' di gente, ma non è che sia questa grande cosa. Diciamo, qualche canale c'era occupato e basta, poi è stato poco REM. E non interessa a te che ci sia qualcuno per imparogliati, diciamo qua. Eravamo quattro gatti qui e intanto entrava un uomo. E mentre a Roma non c'era nessuno, bene. Ho acceso anche a Roma, ho acceso da altre parti, niente. Ma facciamo lo schermo di amatura. Sì, anche a Civitavecchia lì, Santa Marinella, quella zona lì piena di antenne, pieno. Tu sei visto quello dove c'è... Cos'è il ponte della ferrovia? Il ponte della ferrovia? E adesso non ce l'ho presente. Ma dove passano proprio tutti i treni e cose? Quindi sono treni elettrici, roba del genere. Ce n'è una di antenna enorme, una bestia direttiva, sarà 12 minuti. Ne ho visto. Ma sì, ma a Roma ci sono molti CB che parlano una parecchia di amatoriali, perché me l'ha detto un amico di Roma, ma di Ostia veramente, mi ha detto che ce ne sono due, ma lì si fanno questi cavoli loro. Sì, questo è vero, perché ho visto un ragazzo con una macchina, l'ho visto vicino a Benevento, e... stavo parlando normalmente, insomma, un semaforo, io l'ho visto e sentito, come stiamo parlando noi adesso? Era, però la radio non era un baracchino, era un'altra radio. Questa vittoria di aspetto che noi ha un amico di CP e questa è sempre una radio di amatoriali, di gran carriera proprio. Come dici, ce ne sono tanti che non sono di amatori, pure modulano con questi apparecchi qua. E adesso sono diminuiti sicuramente, ma con la storia del telefonino, di internet, tutte queste cose, internet, se tu vai puoi fare ascolto, anche ci sono dei centri di ascolto di Roma e cose dove si ascolta tutto dall'A oppure ti sei scritto dopo che hai fatto la CDX? No, mi sono scritto qui, su internet. C'era un ragazzo che era, che ho come contatto, un mio amico di fuori, che è amico di questi qua, mi ha mandato il link e mi sono scritto a questo club di Vicenza. Paga. Oh, anche Natalino ne ha fatto uno di questi iscrizioni qua, club. Ma io prima ne stavo affattando. Ma poi mi sono rotto. Sono scritto in un altro club, lo stesso, dove ci sono tutti i vecchi CB, ma la più gente. Ognuno c'è la foto dei baracchi vecchi suoi, la stazione, mettono le cose. Fanno una gara, chi c'è più baracchini. Ci credo. C'è gente che ci tiene un bel queste cose. Io perché non ho spazio, se no. Se avessi dovuto conservare gli apparecchi che ho avuto, stai guai. Sono io, caspita. Io la stessa cosa, guarda, io adesso qui tra Rosmith, cagate varie che c'ho, allora c'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne ho 8 quei buttati di baracchini più, ne ho altri scatolati da qualche altra parte. Ci credo. E che apparecchi stai acquistando? Meglio, mi faccio un distanza da base, io sono fissato su quelli. Insomma, ultimamente ho preso un patch che praticamente lo funziona a base, 23 canali, però è stato modificato da 220 a 12 volts. Mi sono fatto l'originale, tutto quanto, l'ho pagato esattamente 25 euro. 120 euro il testat. Il testat? E io. La foglietta? K. Sì. C'era un bel che il quinto era in Inghilterra, e volevano 80 euro per l'espedizione, ma in Italia non lo mando. Che il quinto è quello lo stesso, io l'ho provato, lo abbinavo con un carro più due da Palmo e gamba di spagna. Mi sono proprio, cioè era perfetto, serve tutto quanto, la scatola, le soluzioni, microfono originale, la radio originale, tutto quanto, 80 euro voleva. Dall'Inghilterra gli ho detto, non lo serve in Italia, come glielo pagavo subito, lui mi ha detto, no, non te lo mando. Pazienza. Poi c'era una bella stazione di base della Presidente, lo stesso in Inghilterra, ma anche quelle non te lo mandavano. Perché il Presidente ha comprato, l'ha sempre su eBay. Il Presidente è venuto a Bombo e io mi sono comprato il bagno. E mi sono fatto una proposta, ma non c'è niente, come sarebbe a dire. A me quando arriva me lo segna anche giù, mi fa un suono. Guarda, se lo scrive, prendi due comunicazioni. Ma non c'è vista? Capo. Io c'ho 7. Seven mi hanno detto che è meglio non installarlo ancora perché c'ha dei contrasti e coso. Meglio che lo perfezioni lo prima. Ma guarda, io ho comprato un case, un PC da casa da un tizio a Napoli, diciamo che ho pagato la fesseria e mi ha detto cosa vuoi come sistema operativo, 7 o Vista o un altro XP Ice. Mi ha detto ultimi XP Ice più 7. Andiamo. Sì, tutto due, quando io avvio il computer decido quello che voglio utilizzare, capito? E l'altro com'è che non lo conosco, non serve l'altro? L'altro si chiama Windows Ice, XP Ice. Perché cos'è? Con un altro sistema operativo, soprattutto che le icone sono diverse, è tutto diverso il sistema. Vabbè, ma comunque il sistema è sicuro, diciamo, non è che c'è un virus o roba del genere, c'è un antivirus e cose. No, guarda, io ce l'ho già un mese, questo computer che mi è arrivato. Era già un mese e sono arrivato su internet, l'ho collegato, l'ho fatto, non mi era nessun problema, anzi molto veloce, devo dire. Che macchina hai preso? Allora, la macchina è uno Fujitsu Siemens. No, il mio è Asus. Io l'Acer con il portatile, poi io adesso ho anche un Macintosh portatile. Io adesso chiudo perché domani devo andare al lavoro, sennò non mi dice da manco. Io domani sono libero anche.